sono stato con un buon apparato, che non piglia curve, non niente. No, infatti a me non fa dubbio, non mi ha mai dato, io sono tutti anni questo, e non mi ha dato un problema, però sei nata con la giacchina, va. Sì, vabbè, è giusto per farti la chiacchieratina, già va bene. No, mi rimane la chiacchieratina. La macchina non è mica la. Scusate, non troppo mi sono lui si è fatto lavorare addosso, però abbiamo contatto in questura, sembrava 16 più camminando, con il pacco in mezzo che si vedeva, che tutti lo guardavano e ci mettevano delle pulizie. Ciao Pino, buona sera. No, la padrona è sceso un raio, trovi la pistola, avanti Pino. Non fare l'accento alle ore di roba che lui se la scusi, non se la può mettere. Anzi, se uno guarda proprio la legge, gli è stato stendere e farne fuori. Siccome noi qui siamo un condominio molto civile, appena che siamo entrati, io gli ho detto, lì c'è il doppio servizio. La cucina e la biancheria la stendo da quella parte. E dall'altra parte, nel terrazzo grande, ce l'hai visto, li arrostisco, così che se sto arrostendo, che ve ne accorgete, se vi la faccio il fumo, vi chiudete la porta. Cioè, non è che devo venire io a dirti che sto arrostendo, vi chiudete la finestra. Cioè, tu sei in casa, lo pigli e lo vedi, no? Tutto lì. Poi ci siamo informati, perché siccome abbiamo detto che torneremo su quell'altro là, ci siamo informati e i vigili ci hanno detto, voi vi siete fatti, cosa che potete tenere? Se qualcuno tende roba gocciolante e qualcuno passando sotto si dovesse bagnare e si dovesse lamentare, dice noi veniamo lì, facciamo la cosa che c'è da tutto il palazzo. Quando c'è roba stessa noi facciamo la cosa che c'è da tutti quanti. Così che dice, perché per mese fuori in facciata così non si può prendere. Dovresti avere uno stendino e tenerlo la tua casa. Ma non si può manco arrostire per invece. No, arrostire si può arrostire. Chi l'ha detto? Non ti piace di chiudere la finestra. Quello di difendere la roba lo vogliono perché se si bagna qualche numero che sta passando sotto o che si dovesse fermare lì per caso, uno lo puoi mica bagnare. Ecco perché non si può stendere il fumo, sale, non dà fastidio a nessuno. Allora, prima cosa io, noi non estendiamo roba che gocciola, quella di tutti che è una palata, se ne sempre praticamente la roba, non che gocciola, che è scruis, chi mangia il terrazzo, mangia il naturale, prende, quando sarà aperto, è un casino fa di nuovo, tra l'altro 1009 e continua a farlo. Poi io la roba la prendiamo dalla parte di dietro, gente che non è andata, e c'è scopo di all'occhio dietro, quindi non c'è problema. Io passavo sulla strada, perché hai visto che io ho strada da una parte, strada dall'altra, c'è il marciapiede sotto. E così che per noi è vietatissimo stendere la roba, ma specialmente se è bagnata, perché se qualcuno si bagna e si lamenta, ti può anche denunciare, perché roba pure non se ne può stendere. Mentre che per arrostire, nessuno ti vieta niente. Purché il condominio sia d'accordo, perché quando noi siamo entrati, dice io sono qui all'ultimo piano, posso fare quello che voglio perché sono all'ultimo piano, leggo un peso, se così leggi tu, così leggi il muro. Poi all'anno di base non vi auguro, allora c'era ancora l'ordinino, e così che ogni tanto una sussa gliela dovevamo. Se non gli piace la loro, si piglia e si chiude la finestra, semplicemente. Ma lo so, se non lo facciamo tutti così, ma io qua, secondo me, quelli di lui c'è una bella regola da rispettare, lì magari abbiamo fatto così, ma secondo me quelli di lui c'è una bella regola da rispettare, quindi bisogna rispettarla. Ecco, appallappa, sì, rispettarle, sì. E allora a me, ora se non è venuto mai nessuno a lamentarsi, io molte volte, da quando sono solo praticamente, non mi piace sentire troppo silenzio, mi dormo anche con la televisione accesa. Qualcuno me l'ha detto, dice ma la televisione, e beh, non ho capito, stavo guardando un film e invece sono addormentato, e allora cosa è successo? Perché bene, anche il vacone non intende, a parte che io tengo la finestra chiusa la notte quando dormo e niente, io mi dormo molte volte con la era un po' vicino. Poi uno mi ha parlato alla radio, sì, ma la voce alla radio. Mi ha detto di tutti i colori. Sì, ma ti dovevo dare gli altri. Questo era migliorabile, perché era... Ascolta se ho detto. Che era proprio più male. Di tutti i colori, a voi. Perché non so proprio cavare nulla, che non è tollerante, da voi. E tu non lo decidi. Se lo vuoi sentire meglio, vieni, metti la testa e te lo metto in testa anche un fiorino, così ti torna la memoria. Guarda che gentile, ma... Gentile, gentile, tutti qui sono presi i vani, già stavo facendo casino. Io mi sono preso di vani, no? Io l'hai comprato a Passavetto già, al vino, e non l'hai capito le macchie. No, diciamo una cosa, che quelli vecchi che c'erano prima, le persone che c'erano prima qui, 4 o 5 hanno cambiato casa, capito? Se sono andati via da qua. E 4 o 5 erano persone che erano prima, poi sono subentrate altre persone, queste persone sono tutte difettose. Discorso anche. Comunque ormai la mossa stamattina se non ti hanno ricercato. era rosso, mi sono fermato a Lisco, ma non ci scendere nemmeno perché c'era il vanto forte, si sta trasformando nella strada, quindi non guardare il manco che lo faccia più. Mi conviene più di andare al negozio. negozio, perché se vai al negozio non compri niente con quei soldi lì, capito? Io vado a prendere la presa all'ingrosso, capito? Compro con gli stessi prezzi che compra il salumiere o che compra quello che vende i formaggi, capito? Compro lo stesso prezzo di loro. Quindi se non mi c'è anche lo spinge, se sono andato in negozio c'è una cosa di nuovo. Ma devo essere, tu devi capire che io ce l'ho a 50 metri dal mio capannone. Io uscendo posso benissimo entrare lì, invece faccio il giro e vado all'ordine grosso e mi compro un po' di roba lì e compro sempre all'ingrosso. uno come me che gira, che fa, che fosse di luogo mi prende, non me la vita come sta mano a mano, difficile. Kappa. No, anche a me, pochissime volte mi è capitato che mi hanno fermato. Allora, una volta solo mi hanno fermato e ci sono rimaste male perché il cane a Germania si accava un rasso. Che cane ci hanno rimasto? Che avevo passato il tedesco, adesso è morto a Natale. Ce l'avevo in macchina, il cane. Cosa è successo? Che io sono sceso a Porto Torre, quando sono a Porto Torre, ho detto, passando lì davanti al porto, c'è il fornitore, li fornisco. Però in quel momento io stavo parlando con la mia compagna e niente, mi è uscito di testa, il fornitore l'ho passato e sono arrivato lì alla curva di Malai e mi si è spenta la macchina. Io ho pigliato un bidoncino che ce l'avevo, il cofano, sono andato al fornitore e mi sono messo un po' di benzina dentro il bidone. E loro, quando me ne stavo andando dal fornitore col bidoncino pieno di benzina, mi hanno fermato, dove stai andando, cosa stai facendo, e mi è rimasta la macchina senza benzina. Me la sono presa, adesso me la metto e va bene. Se ne sono andati. Dice, guarda che però passiamo a controllare se c'è la macchina ferma lì. Ho detto, fate come volete. Io ho pigliato piano piano. Quando sono arrivato, niente. Allora, cosa hanno fatto? Furbi, no? Si sono posteggiati un pochettino più avanti, io non li avevo visti la verità perché non ero ben sandaete. Arrivo col bidone, piglio, metto la benzina, chiudo, come faccio per partire, come levo la freccia per uscire dal parcheggio, la paletta, mi hanno fermato, è lì, favorisco i documenti, è entrato la mano dentro la macchina. Come è stata la macchina del cane, io l'ho pigliata e l'ho musicato, e per fortuna gli ha acchiappato la giacca, e ha acchiappato la mano, la zia di un tanto, la pigliata si è messa a voce con me, e io gli ho detto, e lì perché è entrato la mano, chi gli ha dato l'ordine lì di entrare la mano? Il cane lì non lo conosce, giustamente è andato a sballare. Bene, adesso stavo più alla parte grande, gli ho detto, vabbè, lì quando mi farà vedere un coso di regolamento che mi dice che lì mi può entrare la mano così dentro la macchina, allora le chiederò scusa. Però se non adesso lì sta torto, perché lì mi doveva chiedere i documenti, a parte che mi doveva salutare. E poi mi doveva chiedere i documenti senza entrare le mani dentro la macchina. Ha pigliato e non mi ha fatto una cosa di strada, se ne è pigliato e se ne è andato. Ma com'è che non si guarda, solo non lo possono fare. L'abitacolo, cioè l'abitacolo di qua, a meno che quando non hanno fatto qui, allora si possono fare anche tutta la macchina. Se ti devono perquisire ci vuole sempre un ordine di perquisizione, ma come parla a caso, la macchina è una proprietà privata. No, male, non è così, non è come dici tu. Se no l'hanno sospetto che uno c'ha droga, l'hanno bloccato, guarda, io presente, dove c'era, era una soffia che ho qualche cosa, era una finanza, sirena, accostare una macchina con 2 litri dentro. Fatto un discorso che fanno ancora il cane, strappano i pannelli, vabbè, per pannelli c'erano tanti di droga, ma a me si fanno la mia giù arrestare. Ha fermato volendo ciò che ho sbagliato lì per andare dai carabinieri. Sì, un momento, io te ti fermo perché ho una tirata e sono quasi sicuro che in quel coso lì lì ci può essere droga. Però, che tu a me mi fermi e mi perquisisci la macchina senza nessun motivo, o mi scacci i pannelli senza nessun motivo, io glielo posso pagare. Anche non è roba tua. E poi per fermare a uno così, sì, lo puoi fermare, ecco, andiamo in questura, mi controlli, fai tutto quanto quello che vuoi, ma non in mezzo alla strada. Capito? Le cose sono un po' diverse, c'è un po' di abusi, di abuso di potere in quelle situazioni lì, Perché anche un amico mio gli hanno rotto il sedile dalla macchina con il coltello, cioè col coltello, con la taglierina, gli hanno aperto tutti i sedili dalla macchina, non hanno trovato nulla, quello lì, senza torcere manco un pelo, ha pigliato il telefonino, ha chiamato l'avvocato è andato lì, gli ha fatto il cassettone all'avvocato e poi ha pure denunciato l'avvocato. Perché quello lì è un abuso di potere, tu almeno mi devi togliere la macchina con un diritto, con un motivo. Se tu hai un dubbio, andiamo in caserma, mi controlli la macchina, ma non così, a fare gli spaccoli, a pigliare, a fasciare, le faccende. Però ma lui ha chiamato l'avvocato, li ha denunciati e gli hanno pagato tutti i danni, ha portato la macchina all'Alfa Romeo e gli ha detto: signori, vi mettete a posto come nuova, e hanno pagato il conto, bello salato. Il conto mi sembrava un biliardo, no, ma questi qui hanno pagato proprio tutto. E la finanza, pensate, noi la pulizia. C'erano due macchine della finanza, se ci avevamo fermato questa macchina, c'era il vento, una negra e un negro. E come l'hanno fermato, c'è stata la gente che guardava, c'erano i cani antidroga, sono saliti sopra, hanno cominciato a bagliare, lavorando gli scontrini, andai. Ho preso una specie di palanchino, non era quasi tutto, non è che erano smontati piano piano. E metti che non ci fosse stato niente dentro, chi li pagava? Non lo so. Comunque, l'hanno trovata la roba, ne aveva anche un bel... C'erano tutti e due i pannelli, il dottor Fondo del Cofa, dietro. Io sono dovuto restare a farlo perché c'è stato bloccato. C'era la macchina della finanza che si metteva davanti per non farlo scappare e andava a fianco, quindi non si vuole abbassare. Io mi sono fatto tutto dietro questa macchina, nel senso che si era rallentato e si sono affrancati loro. Scappa, vuol dire che quelli lì ci avevano la tirata, perché se no una cosa del genere non mica la possono fare. Se tu a me mi firmi il regolamento, mi chiedi tu, prima di tutto mi devi salutare, in ogni caso. Dopodiché mi chiedi i documenti, io ti do i documenti, è una cosa, io non sono obbligato a darti i documenti. Capito? Noi diamo la patente, ma non siamo obbligati a darla la patente. Non c'è nessuna legge che dice mi dia la patente. Loro devono pigliare solamente visione della patente, o dei documenti, non è che tu la piglia e gliela dai a loro. Che un amico mi ha passato la mano e gliela mancano. E chi l'ha detto questo? Se io non lo possono fare. Vabbè, ma secondo chi tu mi sta facendo, capito? Io una volta, sono salito un periodo dell'articolo degli anni 65-80, e il periodo che c'erano quelle rise tra destra e sinistra, roba del genere. Io devo trovare un amico mio, quello mi sono alla panchina, tra l'altro, correndo, perché l'ho evitato, no? Quasi per scusarmi, sono andato correndo, cazzo, se non si circondano, tutti i poliziotti borghesi. E ci hanno perquisito davanti a tutti, ci hanno fatto togliere gli stivali, anche noi ci hanno fatto le carte bucate, che sono messi tutti a ridere, è un'umiliazione. Poi gli hanno detto, cappellone, perché qualcosa nel cappello, gli si dice lunghi, no, tipo lui era. che fa cappellone, come mai c'è questi soldi in tasca? C'è la famiglia di ieri, stavano con i fondi di stanna. Non è documentato, ma la sentita qua, la sta fatta la mano, la sta fatta. Se lui l'aveva voluto male a quello lì, avrebbe andato dal carabinieri e gli avrebbe fatto la denuncia. E se non sarebbe salito direttamente alla procura della Repubblica, l'avrebbe denunciato tranquillamente. Perché quello è abuso di potere. Sì, ti sfoto, ma anche di quello che tu rispondi, poi ti arrendono per un raggio. Sì, non è così facile. Non è così facile, guarda, specialmente quando c'è molta gente. Infatti, c'è una testimone, però, come si dice, una volta c'è una maschera alle 4 di mattina. Sono andato di mattina, passo lì dove c'è la fiammata, se c'era un bivico fermo, con il mio occhio. E io sono questo libro che c'erano questi carabinieri, poi non li avevo visti, proprio di vivere a questo punto si dà un carabinieri del lugare da un po' con mica di un solo quando rallentato, ma non me ne c'era 10 ad andare rallentato con la macchina, si sono fermato, mi punta la pila questo qua senza paletta, senza nulla, solo con la stessa carabinieri nel giubbotto che non mi chiede né patente né nulla, non mi guarda tutta la macchina adesso con la pila mi fa. Se mi dico, guarda che se vuoi documenti ce l'ho dietro la sacca perché la fai scavare. Io faccio che chiesto i documenti, vada! Vabbè, è come una vecchia fermata, comunque potrebbe anche parlare in medico, perché questo io non sono un delinquente né niente, sono un maestro cittadino, per cui vuole essere trattato come una persona a me. Si accomodi allora. Ma il giorno dopo, come ho detto, è un amico che lì è. Ma il carabinieri ecco sono strapotenti, sono un pochettino così, capito? E il giorno che trovano qualcuno non le fa passare la voglia a me. Sì, secondo me adesso faremo che mi rimane in alto buio, non so se che si dico io al di fuori di tagliare il tigli. Quelli che affermano, e tutti quando le danno un casello. periodo. Non lo devi né collegare né mettere il tappo dove c'è il microfono. Allora così si può anche vedere. Tipo quelli della ATP, perché l'ATP un'azienda del comune, diciamo così, mentre che quella là è un'azienda privata. Niente, però va sempre tutto denunciato, tutto dichiarato e si paga la tassa, anche se è un po' salatina, si paga la tassa di possesso per ogni apparato e per ogni cosa che sia, va, per ogni mezzo. Niente, e comunque li danno, non ci vuole manco, non credo che ci voglia manco il pacchettino della VHS, perché gli danno un canale determinato che non fa parte della banda radioamatoriale, è solo una frequenza tipo aziendale, punto. E punto, perché il responsabile dell'azienda l'apparecchio va montato sul bus, l'autista non c'entra messaggio, deve solo modulare in caso di guasto e tutto finisce lì. Comunque è sempre un responsabile è l'azienda che poi paghi eccetera, siamo sempre lì, sono sempre controllati, capito? È tutta un'altra, insomma non è al nostro livello, ecco, tutto quello che volevo dire io è quello. Thank you. portiamo a livello PRM. KK, riprendi Gianni. No, lui già ci ascolta bene, noi lo ascoltiamo basso perché ha un antennino di macchina. E già dopo che dalla macchina arrivi, non si può passare da gigante, vero o no? Adesso sono dissociato. No, è già passato, sì, ma... Passiamo un po', ma il segnale è passato, sì. Il segnale aumenta, ma si è stato un mezz'ora. Sono vicino, sono aspetta che abbassi un po' qua. Ecco, vediamo un po' l'amico, com'è da Salvatore, mi sembra. Vediamo un po' se mi copi meglio in questo passaggio. Sempre Manolo. Ho capito, no, stavo... provando un altro apparato con un'altra antenna, tutto un impianto completamente a sé, diverso da quell'altro, capito? Volevo sapere se ci arrivavo meglio o no. Vabbè, Salvatore, come chiamavo? Come mai? È caduto giù dalla macchina, si è piegata l'antenna, proprio lui. E l'hai sciolta tu. Che piacere, L'hai sciolta l'antenna. Ah, Mario, cosa ne dici tu? Ah? A te come ti arrivo? Sto fatto di cazzo, è vero? Stai sclappando qui da me, Il segnale ha aumentato un po', ma stai sclappando di brutto. Vedo un po' di vinaggio del segnale. Ecco, mi allontano anche dal microfono. Vediamo un po'. Raccorda, ma... Cosa devo fare? Accordarlo, eh sì, adesso mi sento accordarlo. Voglio solo adattare la potenza dell'apparato, con il microfono già amico, e già l'ultima taccia. Ho fatto solo allontanare un po', grazie. Ma c'è solo con la potenza dell'apparato? Sì, sì, diciamo, l'apparato è un residente. Salvatore, ti sono. Ma tu, Meccanico basso, pasticcione. fratello non ce l'ha più con lui. Pensavo che fosse sempre con lui. Il fratello, io lo conosco, quello che è morto, vuol dire? Quello robusto. No, ti stavo chiedendo se è quello che è morto, il fratello del meccanico. Ah no, sto bambino che pare ci sia. Non so, io comunque sono dei funerali, quello che è morto 2 o 3 anni fa, perché era, diciamo, aveva la pasticceria in viale Trento, sì. Proprio appena finito il terrapieno, entravi giù, c'era una discesa e si andava in questi, erano dei garage adibiti a pasticceria. E io l'ho conosciuto lì, il fratello, e andavo tutta domenica a comprare le fate da lui e tutte le torte per le bambine, compleanni e tutte queste cose qua me le ha sempre combinate lui. Non solo, tutto oggi vado dalla moglie qua dopo il Ponte Nuovo e me le fa lei, non, anche ultimamente me ne ha fatto una per la più piccola delle mie bambine per il 46esimo compleanno. Sempre lì ci seguiamo anche le battaglie, le compleanno dei bambini, tutto li abbiamo fatto sempre. In conseguenza, come hai capito, la prima torta per la bambina l'ha fatta quando aveva 1 anno e quella l'altra le ha fatto adesso 1 febbraio, il 18 febbraio è nata e gli ha compiuto 46 perché siamo nel 2006. E gliela ha sempre fatta, ha detto la moglie, vabbè, comunque sempre da lì è uscita. Dopo 46 anni siamo sempre clienti, cioè insomma, ormai sono andato solo anche io. Sì. Io mi sono trovato sempre bene a fare gli ottimi dolci, poi pulizia, naso. No, è una pasticceria sempre piena, già lo sai come. E infatti non gli ha detto, ma neanche per risparmiare, ma più che altro per problemi di posteggio, eccetera, che sta andando dietro la chiesa di qua, non per il cuore, questa prima che ci abbiamo al semaforo di via della Sovereggia, no? Si gira lì e c'è una pasticceria, che tra l'altro era un altro che parliamo di morte ormai, cosa vuoi che ti dico? Il calendario è quello. Di un signore che aveva prima la pasticceria col punto vendita in via Giovanni Pascoli e è morto, io ogni tanto vado sempre a comprare le pasta dalla vedova, ero dei sentieri grandi, compravo le uova di Pasqua e tutte quelle cose, ma per questione di posteggio, perché arrivi lì, posteggi e 5 minuti, capito? Se ne balli, quello lì. Esatto, se ne balli. Io lo conosco da... dunque, posso raccontarla, Mario, ti sei annoiato. Ecco, meglio tu sei a casa tua, non ti preoccupare. No, per raccontarti questa, quando stavo in via Giovanni Pascoli, erano di quei case che adesso hanno già costruito palazzi grandi, dunque dovevo, mi ha mandato il principale a controllare che tipo di condizionatore d'aria potevo mettere. Premetto che allora i condizionatori d'aria erano con le bocche di ingresso e di uscita, cioè si facevano i 2 cerchi nei vetri e via. Io sono andato a controllare questo malattino, vado dentro, giro, faccio una misurazione così a blocco, dico qua si può andare un 5.000 perché l'ambiente era piccolo. Poi, per mia fortuna, prendo e tiro lo sguardo al tetto per vedere l'altezza. Cazzo, ho detto, signor Sinibaldi, ma qua non c'è tetto, qua si vedono le tegole, cosa faccio a mettere in condizione di stare già nel quadretto? E così non se ne è fatto niente. E ho finito tutta una grande risata e con il tiratore non se ne è messo. Vabbè, contro subito, se vogliamo. Sì, quello pensavo già trasferenza. Comunque di cosa soffitto, cosa metteva? I pannelli di plastica, di cartongesso, e l'ambiente era quello. E per forza c'era caldo prete, figurati, e cosa gli faceva uno di quei condizionatori? No. Erano già reversibili, cioè li girava, quella, allora si giravano completamente, no? E dalle poche prendevi l'aria da fuori, la mettevi, mettevi dentro o viceversa, e tirava l'aria calda o l'aria fredda. Era tutto l'altro sistema, era un frigorifero in pratica, ecco, radiatore e basta, tutto lì. Però la risata appunto è stata quella che mi sono trovata col soffitto che c'erano le canne e si vedevano le tegole. Dunque stava luce e aria da tutte le parti. E tu che lo sono stato parlando di a Pasqua, non mi ricordo se l'ho fatto. Io te lo posso dire perché un po' bubucaccio la diera. Ci stava grattando una volta a volte qui, sono arrivati dei ragazzi e gli ho detto con voi una pesca fila di un rimane e gliela messa nella busta. L'avevo visto così, ho preso un mio. Sì, vabbè, lasciamo fare queste cose. Ne abbiamo visto di altro, no, non fa dire niente. E comunque te l'ho voluto raccontare per dirti la voce che ricorda sempre. Perché c'erano anche le bambine piccoline e tutto, e già c'era questa vetrinetta, cos'era un metro per un metro, e la porta che ci passava, io adesso forse non ci passo più. Comunque è una delle cose che rimangono, sai, che vai a controllare, che vai a vedere come si mettiamo le cose della sua. E sono tornato di cose, dice beh, se ne vada, e se ne vada, c'ha le canne nel petto, cosa gli dobbiamo? Ma... secondo lui stava scherzando, ma non è possibile, se stava andando a chiamare e a controllare come mette il risultato dell'aria e c'è tutto il testo aperto, ma non è possibile, hai guardato bene, non parla, vada a guardare lì. Perfetto, e io me lo ricordo, ricordo una volta ragionieri lì, andavano molte ragazze alla narrazione, se poi si passa lì, va a Pilo, va a Pilo. E Pilo era uno dei figli, è stato, ha visto di Riccardo, adesso quello è andato via. Comunque gli aveva regalato addirittura un tornado a Riccardo, figurati. Poi avevo comprato l'antenna, di DC, cavo, e poi usciva con quell'affarino di Riccardo, con quattro bottiglie sopra. E l'avevo ricordato che toccava la lanchera al posto, no? Si sono messi d'accordo, uno partiva dalla Torre Grande e l'altro dal porto. Ha incrociato, dice, ma queste parti, da queste parti. E quello che diceva, guarda che sono a Sassari. Non è possibile, non ci credevano. Come non me la parecchio? Ma, diciamo che mi piace anche... Mi piace, è un bel apparecchio lo stesso. Mi piace perché è una bella stazione, nera. Come voglio io, mi comporta tutto. E questa è una bella messa in scena, perché dentro, caro mio, c'è il tornado e basta. Poi hanno aggiunto un po' di levette, fatto strumenti, però l'apparecchio qua dentro è il tornado, picchi cazzo. Cioè gli schemi elettrici di tutti e due, è tutta paranza, diciamo così come dite voi qua. Vero Mario, cosa dici tu? Gli apparecchi sono fatti tutti con lo stesso stampo, hanno pure modificato un po', gli hanno dato un altro nome perché giustamente era modificato tramite strumenti, tramite quello. L'apparato che voglio è sempre lo stesso. Allora, partendo dall'appunto che a me è tornato una parecchia che piace, diciamo una cosa. In più c'è la documentazione, noi c'è anche l'estetica dell'apparecchio, non so che fatto che sta bene la modulazione, ma anche l'estetica. Quella parte pesante, io ho preso in mano Mario, mi disarma, perché ci ho trasformato e adesso deve essere programma. L'alimentatore è robusto perché tu mi insegni che se va anche in SSB, è chiaro che la potenza del trasformatore deve sopportare questa uscita, perché non sembra niente, ma se fai conto che da 10 se ne va a 22, 25, in SSB vuol dire che il trasformatore deve reggere. E qua non si abbatte le lampadine, sai, della scala parlante, chiamiamolo così, sai, degli strumenti. No, non è una cosa. Ma secondo me c'è questa parte di... Io ti copio benissimo, ottimo e abbondante. No, qua poi arrivano tutti bene, dai. Se l'ha fatto un principiante l'antenna e dunque per il momento va ancora bene, dai. Poi più avanti vedremo. E c'era Giulio che mi vuole aiutare a, a fare il traliccio, quello che domando. Due chiodi, due vizi, proprio vizi mia. nella caviglia, perché ho detto, ma lei o no, in tre parti mi hanno detto. Ed un proprio sono scivolato su un pedile, diciamo così, sulla strada che era in intendenza, sul sacco di zona fondo, e ho piegato il piede. E siccome ho pensato che fosse stato slogato, cosa ha fatto? Uno che era lì, perché era riuscito di condominio. E i dati proprio dato, sanno già che io non mi chiamavo nemmeno nel condominio. Comunque me lo sono fatto, il codice tiri un po', che forse sono piegato. Tira il piede e si vede che la struttura se ne era una sola, me ne ha fatto altre quattro. Beh, comunque ho operato, perché ho già 50 anni, dice non calcifica più. Allora l'operazione, un paio di chiodi, che tra l'altro sono andato a visita del controllo dopo 2-3 mesi con gesso e tutto, e io avevo sentito che correva del liquido. Lo senti, no? Che uno sta anche del gesso bene, lo senti uno se scorre cosa, no? E non mi volevano credere, aprite almeno un finestrino, vedete un po', una ferita, no, beh, dico, se non lo fate voi, fanno la casa, ma se l'altro me lo levo, perché io ho la ferita aperta. Beh, è venuto il professore, ha aperto la ferita e mi ha ricoverato il reparto immediatamente perché avevo il tetano, non ti dico altro. Cacchio, scotto con la ricanca. In ospedale, sono andato per controllo per il gesso, no, me lo volevano levare. Nonostante quello, ho detto, aprite un finestrino, cosa ci vuole per loro? Metto un segreto, apro un tasto e controllo la ferita, non mi sembra che la luce stava, niente, non mi sono messo, mi sono messo a tirare il gesso sul tavolo, su tutto, a romperlo, alla fine è arrivato il professore, me l'ha fatto levare, mi ha ricoverato immediatamente il reparto. Dica di dargli il letto immediatamente. È arrivato lui dopo un'ora e io stavo seduto nel corridoio. La scuola per destra battuta i coglioni e li avevano, perché era la capo reparto, non gliene è pegato niente. Beh, io sono stato 8 giorni che il professore mi metteva il solito cosa per sentire il rumore, il dolore, e mi passava lo straccio da una parte all'altra, lo levavo, lo come tu dici, che so io, mi dica di tiri, dai cosa c'era qua. Ecco, così facevo lui per levare tutta la roba che c'era dentro, non si qua, come l'ho passata io, per un caso di ferita. E poi l'ho tenuta sempre a testa, l'ho chiusa io a forza di cicatrenne e balle varie. Sì, se ti racconto la storia mia non ci sarebbe mai. Adesso mia madre mi ha detto, visto che sono la pomodosa, io sono la sorella che metta pomodosa e sposa Calina. Mi ha detto, portali questo pacco, che ha tre scalini, io posso lì sul pomodoro. Era una giornata di pioggia. Io scappo a lei, vado a correre, perché ho già ritratto, calo, e si batto la schiena di scalini. Non riuscivo più a alzarmi, non riuscivo più a respirare, mi sono adagiato su una macchina, è stata quella di 8. Poi ho fatto così per andare a lavorare. Sono andato a lavorare, io che ci fa le mani, ho detto, se vuoi ti do una sigla per sedirti, no, ma facendo la battuta, come dire che non sto facendo niente. E mi ho detto, non scherzare perché mi sento male, mi fa male la schiena, sono caduto e sbattuto la schiena. Dice, ma vabbè, vedi tu cosa fare, ma io dopo ma sono tornato. E sono andato dal medico, mi dico, gli ho detto così e così, mi si è formato un ematoma enorme dietro la schiena, proprio a livello lombare. E mi dico, guarda, questa forma è che 15 giorni ti passa tutto, ma è grande, in 15 giorni questa roba non passerà mai. Corrà a pelle, no, non ti preoccupare, io ti passo. E aspetto 15 giorni, mi si è fatto giallo, verde, e un giorno sono andato con l'ambulanza a toccare un malato. Mi faccio vedere la foto. Avevo lasciato un video vicino al letto, dunque comunque io ho seguito attraverso il video tutta l'operazione, tutti i ferri, tutto il taglio, tutto quanto. E quando hanno finito si sono accorti che io stavo guardando, l'ho scritto tranquillo guardando nella televisione, e se ne sono accorti. E ti dico, subito aspetto tutto, ma quando è vedere la testa dite, io mi sono di contento. Diceva perché? Guarda che sono un radiotecnico. E lei mi disgraziato, voleva dirmelo, poteva venire, poteva aprire, me lo sai attrae. Ho messo tutta l'operazione, fate così. E loro tutti spaventati. Quando hanno finito l'operazione e mi hanno chiuso questa camera, ho messo portuaria con lo psicologo, no, voleva sapere cosa avevo visto e che condizione era. Io sono tranquillo, mi sono divertito, ma... Mario ha chiuso, sembra un mito. Ma la mano, anche lui fuori. Ma magari questo canale sta facendo male davvero. Prima quello di lì che era morto. Poi adesso Mario. Non è che tocca più a lui, ma... Vabbè, prendiamo un po' di visi, vai. Io stamattina sono andato a visitare la mia madre con la cagnolina e poi ho preso i piedi e sono andato all'alghero. Anche la giornata non era molto bella e ci siamo fatti una passeggiata da diciamo così, da dove sono le barche fino a Torre Grande, dall'altra parte del muro. E la cagnolina a un certo punto si è stancata e ho dovuto prendere il braccio. E comunque ci siamo passati la mattinata, poi al ritorno sono passato al supermercato, meno male che era ancora aperta, ho comprato un po' di roba da mangiare e mi sono andato da fare, così non mi sono messo alla pente, non sono messo ai fornelli. E come era il mare a Cosa Alghero? Il mare, il lungomare da Sestiglia all'Arlino era tutto alghe. E entrava parecchio il mare, era brutto comunque, era di vento, però lì evidentemente oggi non entrava il vento, lì. Invece dall'altra parte, dalla parte dell'hotel dove c'è il cinema, eccetera, lì invece entrava di più, c'erano le onde più alte nei bastioni, dai, diciamo così. Comunque io nuovamente ovviamente quando ho fatto bella giornata mi faccio un giretto anche per far camminare la macchina perché tutta la settimana non esce dalla città e parti, quindi dai e qua e di là meglio farla camminare un po' che non li fa mica male. Tanto in questa a me e quando sono sull'autostrada gli metto la quinta e arrivo fino all'Alghero senza toccare niente. E no, si mangia una tazza di benzina, proprio guarda, è una meraviglia, silenziosa, tranquilla, stabile, e diciamo che sono passato da tumbarella a una vera macchina, almeno per quanto riguarda me. Ma che ne prego, l'appunto? L'appunto, l'ultimo modello, quello che c'ha i pannellini aggiunti dietro, dai. Bianca senza niente, sai cosa vuol dire senza niente? Il tanto di camminare. E già mi dà fastidio, ho fatto la cetrolina che non sta più in piedi, che non sta più. Non cambiato il modo. Come? No, mi hai detto che la posso da modificare, non te la modificare. No, quello lo farò quando vado a farti installare l'autoradio. Allora vi faccio la domanda se possono fare anche quello. Comunque c'è una posizione della chiave che è in grado, diciamo così, c'è un pulsante, premi quello, però devi sempre lasciare la chiave e rimane anche il quadro acceso, capito? E non è che mi vada molto la questione, in quel caso la puoi aprire e chiudere, però no, in tutti i modi non funziona l'accendisigari, va bene che non fumo. E dunque, sapete così da poter ritoccare, ma è meglio che lo facciano loro, però già lo sai che succede qualche cosa, ecco perché non dovrà farlo, tutto lì. Perché la tanda è pensione l'ha mandata. la fanno in pensione. Mi hanno dato 3.000 euro, scontato la nuova. Ecco che pensione. Oia, io sono andato, guarda Mario, con l'idea di comprare la trapanna nuova, no? E costava 8.000 euro. Però mi ha detto, dice, guardi, ha comprato la tua macchina così, la deve scoprire di più. Prendersi l'appunto, è più grande, sta meglio, più comoda, è più accessibile, eccetera. E questa comunque gliela possiamo valutare 3.000 euro. Quanto costa la 12? Quanto deve rimanere? 8, 7, 8 pagato, capito? E sono uscito con la macchina più grande, tutto lì. Dunque, non è che lo so che ti fregano sulla somma, dai, se sempre fanno quello che vogliono, comunque. E comunque io ne sono uscito per la stessa cifra, invece della panna ce l'ha appunto, tutto lì. Avete parlato in 15, che dico là? Avanti Mario! Tranquillissimamente, anche senza prendere il cisti, no? Cioè il tasto per alleggerire il volante, ma io ero già abituato a portare quel tram lì, la pandemia, e dunque non lo cerco neanche. La manovrabilità è estrema, guarda, entro in posti che prima non ci avrei pensato, perché senti se vai dentro. Sia piena, sia di fiera, sia come vuoi. Insomma, mi trovo, guarda, benissimo. Perché ce n'è una, sono andato, Zatti me l'ha venduta, le ho portato, dunque cosa era, il panettone, e l'ho ringraziato. Tutto contento è rimasto, non ti ricordo. Direttamente dentro, guarda, e senza, ho messo due sensori sotto ed è rimasta bella dritta, tranquilla. E se vedi il biglietto, già lo sai che è grande, vedi quel pannello che c'è, e guarda, mi trovo benissimo. E comunque, ripeto, il fatto del pannettone è stata una questione di cortesia mia ed è rimasta contenta, solo che ti dico. C'è chi lo fa, c'è chi non lo fa. Io mi sentivo il dovere, perché mi ha dato veramente, c'è quella macchina per me e ce l'ho io. E quella mi ha dato e ti dico, sono rimasto più contento di così, non posso essere. Dunque era mio dovere è rispondergli al fatto che ero rimasto soddisfatto, tutto lì. Meglio che lo sappiano anche loro. Poi mi hanno anche telefonato e quello va bene, sono telefonate che fanno ai nuovi acquisti e gli ho risposto benissimo a tutto le richieste che mi hanno fatto. Dunque, tutti contenti, soprattutto sono contento io, ed è quello che conta. Comunque per quanto riguarda il consumo c'è ragione, consumo meno di quella. Che devi attendere che ti dia il via prima di... Ma è morto! insomma facete il quadro, ci sono delle spie che vedete scherzare, dopodiché fatti, evidentemente candele non ne ho visto, evidentemente c'ha delle candelette pre-accezione come il dice, cosa del genere, io ho pensato così, No, già ci sono le candele, non tonnelle, le candele ci sono, è iniezione elettronica e comunque va molto bene, non è così là. E niente, no, quello degli altri non te lo so dire perché io, per lo meno, mi sono andato in macchina, schiacciavo il pulsante e il vato si abbassava. Sì, ma sempre con la chiave inserita, prendevi la chiave ma non si apre niente, è quello che voglio dirti. Vabbè, cappa, sono tutti sotto centralina di chiave, anche perché è un buon sistema, vedi, quello che devi stare molto attento è sempre la chiave, che non si va la furcizia degli incavi che ci sono, perché hanno la lettura elettronica, a posto di essere sporca, di entrare là dentro, magari a un certo punto può non leggerti più il codice e praticamente non riuscirai più ad avviarla. Tutto lì, niente, l'unico problema fastidioso che ha con la macchina, per uno che lavora, che magari la mette in tasca, c'è le tasche piene di roba, niente, capito? E potrebbe essere noleggioso per quel tipo di chiave lì. Comunque è sempre una sicurezza in più perché è molto più difficile rubartela, perché se non legge il codice non parte, manco se la spari. Infatti. Allora Mario, allora mi posso chiudere le orecchie con la chiave. Lo faccio sempre. Certo, non puoi più pulire le orecchie. Ti pulisci le orecchie, come dici tu, la metti in tasca, la appoggi da qualche parte, si attacca a polvere, si attacca a quello, si attacca a quell'altro, e poi a furia di andare avanti arriverà al punto che non ti reggerà più il codice e non partirà più la macchina. Sì, già ci sono più che codice, li reggerà dentro perché c'ha il canale, c'ha le guide, dunque dopo sicuramente seguendo le guide e poi va a leggere la centralina come dici tu e si mette tutto in funzione. Comunque c'è intanto io già ho deciso, mentre si spegne il quadro, si accende tutto, poi si spegnono due o tre lampe, spie e io nel frattempo mi allargo la cintura e partiamo in quarta, dunque anche quel problema è elevato. Avanti proprio lungo, capite, cambiato lo hai questo apparato, o ti sei addormentato? Proprio lungo. Troppo tempo l'abbiamo lasciato in sorta, si è addormentato proprio, o ti è addormentato cambiando il baracchino, voleva farmi sentire l'altro. Attento, proprio lungo, non dormire, che ci circondiamo, Ma sto dormendo, non sto dormendo. Adesso già si è fatto avanti, riprendi tra le forno. Questa vocina che ha tirato fuori. Mi sono svegliato. E ogni tanto mi viene un attacco di sonno per il riprendo. Ma mi ascolto, ma no. A poco fa devo chiedere un po'. Ciao Manolo, ciao Mario. Ci vediamo a passare domani sera, ma c'è tutto. Va bene, ok, ciao. Ok, va bene, anche io vado. C'è la cagnolina che vuole uscire, che spero di fare due giri, fare due giri qua in campagna. Se no mi sta a buffi anche lì. Va bene, ciao Mario, buona serata, fate la vestita anche tu, vai. Hai mangiato bello e pesante, hai detto che hai mangiato che cosa? Tutto bello e pesante, va bene. Bella pedichetta a tutti e due. Io sono in diretto con la cagnolina e poi un pezzo di televisione, perché l'ho pagata tutta, dunque quasi il canale mi è rimasto da guardare ancora. Arrivederci, buona serata a tutti. Ciao. Ciao, già, buon correttivo a tutto, ci ascoltiamo domani se coincide, perché a quello che ho capito stavolta non è accende. Ciao Marò, buona passeggiata e ce la riascoltiamo, là. Ciao, ciao. Ciao, buona serata a tutti e due, ciao. No, non già accendo, ma. Grande. Ehi, già accendo, Marta.